in diretta dall'Ubuntu Orange Box Opencast Alpha. Salten ballet, tornien en tornen rurí, veixen ni leixen xilons. Sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Opencast Alpha. Ronya i rompa cabell de l'ossa creixin a flu. The Freak Fandango Orchestra. Aspetta che arrivo, aspetta un attimo che chiudo qua. Aspetta. Non è che puoi lasciare l'Ubuntu Orange Box aperta. Aspetta che la chiudo. Ecco. Allora, ciao a tutti. Buonasera. È incredibile, dopo tanto tempo, un'ennesima puntata di Opencast. Non è stato facile. Opencast è il programma che vi sorprende, non tanto per il contenuto, tanto sul... Oh guarda, c'è una nuova puntata. Sì. Ogni tanto capita. Esatto. Non so se vi siete accorti, ma questa canzone che abbiamo poc'anzi sentito aveva un cameo di Dario Fo. Di Dario Fo? Sì. Ah, sì? Facevo... Sì. Era un remake di Dario Fo. Io invece ho sentito una testimonianza di una grande attrice che ci ha fatto sapere Frank che Frank Rame? No. Scusa. No, Angiolina Giolitti. Ah, la conosco. Sì. La sorella del grande cantante. Chi? Jamiroquai. No, pensavo cose a caso. Vabbè. Abbiamo ascoltato Mundo Cannibal dei Freak Fandango Orchestra, un brano nuovo di un gruppo vecchio, insomma, appena diciamo... uscito, saranno almeno 7 anni che è uscito, più o meno, circa. Insomma, vabbè, è appena uscito però, circa. Allora, notizie succulente, perché oggi ne abbiamo da dire tutte quelle che avevamo perso. Allora, abbiamo detto già Ubuntu Orange Box. Cos'è? Sì, cos'è? È una scatola con dentro... arancione. Sì, con dentro Ubuntu. Un sacco di Ubuntu. Esatto. Ok. Allora, che cos'è? È una scatola che serve per gli sviluppatonni, perché chi usa queste cose devono essere per forza degli sviluppatonni, con dentro 10, e dico 10... Quante, scusa? 10 computer, schedine computer, con dei semplicissimi Intel i5 Una scheda video Intel HD 4000, 16 giga di RAM e 128 giga di disco allo stato solido. No, scusami, quindi è una scatola, allora, con dentro dei computer. Sì, cioè una scatola computer. Di computer. È una scatola bella grossa per avere 10 computer. No, perché i computer sono a schedine. L'hanno fatto apposta, stile. È carina come cosa, cioè la guardi, è proprio arancione, cioè io non ci credevo all'inizio, Eppure sì, no, sono riusciti a farla arancione. Diciamo che è una HDK. HDK? HDK. E che cosa vuol dire? Stai male? Ti sto suggerendo. Ah, ma... Scusa, hard? Hard? Hard, hard. No, queste cose, dai, no, per favore. Vestiti. Ah, vestiti hard. Esatto. Una roba tipo di pelle. Simile, ma arancione. Ah, di pelle. Che c'è, ho capito, quindi è un vestito di pelle arancione. Vabbè, te lo dico con io. È un hardware software developers. Com'è che si chiamano quelle cose lì? Sai che c'è l'SDK? Sì, che vuol dire? Software Developer Kit. E quindi questo è un Hardware Developer's Kit. Sei bravo alle volte quando ti impegni. Non è stato facile. Quindi fondamentalmente si tratta di un un aggeggio per sviluppare. Di un cloud portatile. Esatto. Di un, volendo può fare tutto, nel senso, avendo un dentro clusterino, 10 Intel i5, credo che riesca anche a scaldare il pranzo. Beh, quello sì, può tornare utile. Sono quasi convinto. Ma fondamentalmente serve per testare il sistema cloud basato su Ubuntu. Esatto. Ubuntu Canonical ha sviluppato questo sistema, di cui adesso mi sfugge il nome. Sarà che permette Ubuntu la Orange Cloud, no, per esempio. Permette di fondamentalmente configurare. Vabbè, ma c'è Orange. Sì. Va bene, tranquillo. Permette di configurare dei servizi sul cloud con una comoda interfaccia grafica, collegando dei blocchettini tipo grafico, insomma. Poi, no, sei bravo. No, poi te lo spiego. Ti faccio un disegnino. E comunque stanno iniziando a produrle, stanno iniziando a venderle. Diciamo che il prezzo non è che sia tanto abbordabile. Perché? Quanto costa? Posso usarlo in casa? Sì. Cioè lo metto al posto della stufa? Esatto. Quanto mi consuma in elettricità? Abbastanza. Ma, però la cosa strana è che ha devo portare solo la 320? No, perché ha un solo connettore per l'alimentazione, quindi credo che si squaglierà. Vabbè. Vuoi sapere il prezzo? La versione base? Sì, sì. 7575 sterline. Che tradotto in euro? Sono di più. Circa 10.000 euro. 10.000 euro sono dentro quanti computer? 10. Quindi fa 1.000 euro a computer. È una presa per il culo. Abbastanza, sì. Dico, vabbè. Vabbè, no, però te lo danno in una bella scatolina. No, tutto preciso, bella, fatto c'è anche bene. L'antenna, c'è anche una ventola dietro. Nel senso, non avete la stufa a pellet? Compratela. Io credo che la stufa o la scatola, la comunità europea ti possa risarcire almeno il 50%. No, lo Stato che te lo dava, sì. Con le tasse fai il 7,30, risparmio energetico. No, la pompa di calore. Sì, ma con l'elettricità che ti ci vuole per farlo andare. Vabbè, allora, per dire, devi mettere i pannelli solari. Poi è tutto un coso che si morde la coda. È un coso che si morde, esatto, la coda. Vuoi un'altra notizia? Sì, vai, spara. Ma proprio te la dico così, eh? Sì, sì. Se avete un account eBay, cambiate la password. Ah, questo è giusto per... Sì, no, è una comunicazione di servizio. Aspetta, scusa. Comunicazione di servizio. Gianna, per cortesia, è in cassa. Gianna, in cassa. Questa era la comunicazione di servizio. Ah no, scusa. Puoi rimettere. Se avete un account eBay, gentilmente cambiate la password. Grazie, questa era la comunicazione di servizio. Sì, mi sono accorto che eBay mi ha mandato una mail dicendo che dovevo cambiare la password perché sono stati sotto attacco. Allora, quindi loro, me la siete cercata, eh? Sì, perché loro erano lì, dicevano: a noi vendiamo, a noi non ci attaccano, di qua di là, noi adesso vendiamo i giubbotti antiproiettili, tanto a noi non ci attaccano. Continuavano a dire queste cose, alla fine li hanno attaccati. È così. Allora loro cosa consigliano? Consigliano di cambiare le password, giusto per. Quindi se avete un account su eBay, cambiate la password. È un consiglio di OpenCast Alpha, il programma di utilità generica. Che accetta pagamenti PayPal. Per dire. No, per stare e in poi, tema. Sì, dopo sul sito troverete gli estremi. Si chiama IBAN quello lì. Esatto. Diciamo che dopo gli attacchi e tutti i problemi che ci sono stati con l'SSL, menate varie, i problemi della sicurezza sul www continuano. Continuano, ma di contro c'è chi trova che l'open source sia comunque un miglioramento rispetto alla situazione standard. Parliamo della città di Vienna. Cioè, la situazione standard sarebbe? E quel sistema operativo con quel pacchetto ufficio. Quello che è arrivato all'8. Quello. E vabbè, quello. Ma anche il computer spento è meglio a quel punto. Cioè, esattamente. Cioè. Parliamo di due realtà, signori. Parliamo, una è la città di Vienna, che sta aumentando la presenza dell'open source all'interno delle... Le palle di Mozart. Eh? Le palle di Mozart. Sì, sono realizzate... Cos'è, una roba fetish? No, i cioccolatini. I cioccolatini. Sono realizzati con un programma open source. Poi sì. Non lo sapevate, adesso sapevatelo. Lo sapete. Va bene. No, in realtà nel, diciamo, nel viennismo. Nel viennese. Nella viennese. Nella viennetta. Tutto ti devo spiegare io. Meno male che hai me. Meno male, no, certo. Se non ci fossi mi dovresti inventare. Comunque, la città di Vienna, appunto, stavo dicendo che già sfrutta l'open source in diverse realtà all'interno della loro rete, diciamo comunale, organizzativa. Già usa diversi server Linux, qualche centinaia, 400 server Linux su 2000 che ne hanno. Hanno diverse installazioni di Apache, svariati database sia su Postgres che su MySQL, una certa quantità di installazioni di OpenOffice sui desktop e pian piano c'è questo programma di migrare sempre di più verso le scelte open source, in special modo per evitare il cosiddetto lock-in, ovvero sia il trovarsi con dei software che ti obbligano a comprare software sempre loco. Cioè non... Si dice inchiappettati. Yeah, sì, ok, era in inglese lock-in. Okay. Che io traduco, trovarsi inchiappettati. Okay. Ho tradotto. Sì. Già che ci siamo, potremmo mandargli una mail, però, a questi qui di Vienna. Usano ancora OpenOffice? Sì. Cioè, usano ancora MySQL? Cioè, ma provate la Maria! La Maria! Vabbè, voglio dire, secondo me sono installazioni fatte magari qualche tempo fa. Che man mano che verranno sostituite col tempo, vengono, tu sai, che non vengono aggiornate. No, tu sai che in una situazione del genere è difficile fare dei cambiamenti. Sì, e sì, cose sì, del sì, sì, sì. Funziona. Non ci sono problemi. Fa rima. Cioè. Un'altra realtà che invece si trova, diciamo, alle strette con quel sistema operativo è quello che è arrivato alla versione 8. Quello, bravo. Okay. E non stiamo parlando di quello con la X. Che ha superato la versione 8. No, quello più indietro. Esatto. Stiamo parlando della Cina. No, la Cina non è un sistema operativo. No, stiamo parlando del fatto che la Cina ha messo al bando quel sistema operativo, quello che è arrivato alla versione 8. Sì, ok. Allora, dobbiamo anche precisare che la Cina ultimamente è stata anche un po', diciamo, accusata da... quella nazione in cui quel sistema 8, ma che non è facile, risiede, di cybercriminalità. E c'è, diciamo che ognuno dice la sua. C'è chi dice così, loro dicono invece questi sistemi operativi che noi compriamo da voi contengono delle backdoor che voi usate per venire in casa nostra, sì. Fondamentalmente, che è ancora più probabile. Sì. Non che non sia probabile l'altra, no. Però, però questa è sì. Quasi certo. Per cui cosa succede? In Cina hanno deciso che non si userà Windows 8 sui computer dell'amministrazione. Questo ha dato, diciamo, spazio a un vendor di software che sviluppa appunto software per proporre la sua soluzione basata ovviamente su Linux. Dottor. Fatta in casa, sì. Dottor. Sì. C'è sta l'offerta, Io, che c'è? Io gliela dico perché lei è mio amico. Cioè, che cosa allora cosa c'è questa offerta? Viene fuori un pacchetto bello, Winnots 9.18. Cioè, è proprio, cioè, glielo do perché lei è amico. Ultimissima versione. Esatto. Lei mi dà 200 euro e poi si può fare le copie che vuole, può fare quello che vuole. Non c'è backdoor qua, Qui NSA non può entrare, Comunque io vorrei far notare, a parte la storia delle backdoor della Cina, gira degli attacchi, su un 33 giri, il fatto che evitando di acquistare software di un certo tipo si apre spazio a mercati interni che possono anche spingere una l'economia. Esatto, una certa economia interna, invece di portare soldi all'estero li si lascia all'interno. Tu mi insegni. Diciamo che anche i piccoli programmatori crescono, perché comunque l'assistenza e tutto il resto può essere generato anche dall'interno. E questa è una cosa che ne abbiamo già parlato. L'open source è grande da questo punto di vista. Bene, e intanto che vi lasciamo pensare su questo punto, su questa vastità dell'open source, su questa verità di vita, questi tramonti infiniti, albe dorate. Vi lasciamo col prossimo brano. Loro sono di Aston Ellis e il brano si intitola Tutto attaccato, Sex, Drugs and Rock and Roll. Queste praterie che continuano verso est e degradano in quella valle che è la valle della morte. Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Sex, Drugs and Rock'n'Roll di Aston Ellis qua a Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del gruppo Linux di Como. Trovate tutte le vecchie puntate, se proprio non avete nient'altro da fare, su www.gl-como.it. Oppure aspettate le nuove che prima o poi usciranno. A cadenza completamente random. A cazzo di cane. Vi ricordo che sul sito www.gl-com.it è disponibile anche il feed RSS del podcast, con cui potete automaticamente scaricare le nuove puntate quando saranno disponibili. Oppure veniteci a trovare e prima o poi le troverete. Per esempio, passate, ogni tanto passate. Stavamo parlando di varie notizie dal mondo open, sì. Abbiamo raccontato del open source che si insinua all'interno delle amministrazioni. E invece adesso volevamo parlarvi del DRM che si insinua in alcune applicazioni. Che si insinua fra le tue valvole. Esatto, allora. Cantavano i Gemboy. Che cos'è il DRM? Il DRM è una gestione dei contenuti coperti da copyright per fare in modo che il detentonno dei diritti riesca a mantenere i suoi diritti e che quindi voi non copiate i suoi contenuti. Fondamentalmente si tratta di un sistema tecnico per controllare i riproduttori multimediali, fondamentalmente. Tu non mi riproduci se non mi paghi i diritti. Fondamentalmente. Neanche in rovescio. Il fatto è che sul web l'HTML 5, V3C. Tutte queste belle cose, come voi ben sapete, tutto quello che passa sul browser è teoricamente in chiaro, diciamo, esatto. Per cui è possibile guardare il codice della pagina, è possibile guardare il codice degli script che girano nella pagina, è possibile guardare il codice dei fogli di stile della pagina. Se la pagina include dei video utilizzando i tag video, questi video è possibile scaricarli. Infatti il browser di solito dà direttamente l'opzione scarica il video come fa la funzione salva immagine, mm-hmm, per le immagini. Ovviamente questa cosa non piace a chi si trova a fare, si chiamano detentonni di diritti, no, si chiamano le major discografiche, perché in realtà i detentori dei diritti non sempre sono contrari a questa, esatto, cosa. Si parla di major, di quelli che in realtà quelli non che fanno hanno niente. Pagato. No, sono quelli che non fanno niente e si beccano i soldi. Ah, ecco. Okay. Fondamentalmente l'idea è quella. Allora c'è questa proposta, diverse proposte in realtà, diversi sistemi per inserire il DRM appunto all'interno del web. Allora, uno, mettere una spia che ti controlla e ti fa pagare ogni tot. Per esempio, sistema. 2. Mettere la colla sul tasto C della tastiera, così non puoi fare Ctrl C. Anche. Per esempio. Oppure impostare nella pagina che quando fai Ctrl C ti apre una esplode. Pagina a caso. Tipo? YouPorn. Per esempio. Però dopo lì ti si consuma il tasto C. Ma... allora, la notizia in questione non è tanto il fatto che stiano provando a inserire il DRM nella HTML, quanto il fatto che bene o male ci stanno riuscendo, anche se ci stanno riuscendo nella peggior maniera, ovvero sia con diversi protocolli incompatibili tra di loro. Sì, perché ognuno va avanti per la sua strada. Esattamente. Addirittura Microsoft propone un sistema di DRM non soltanto sui contenuti multimediali, ma su tutti i contenuti che passano nella pagina, compreso il codice sorgente, compreso il JavaScript, il CSS, le immagini, tutto. Per cui... Allora, io sono quasi convinto che a una certa su Internet Explorer i siti saranno delle immagini. E sì, però le immagini le puoi ancora copiare, ok? Sì, ma in realtà questo sistema, tanto non hai più il mouse, non hai più la tastiera, per cui in realtà non puoi. Un sistema del genere ti permetterà al browser di non farti copiare parti del testo, per esempio. Per esempio, sto provando a selezionare qui. No, qui funziona. Ah, non è Internet Explorer. Ecco. E la notizia triste dietro tutto questo, anzi davanti a tutto questo, è che Mozilla sta, diciamo, pensando di supportare indirettamente DRM all'interno di Firefox. No, scusa, Mozilla aveva detto: mai DRM nel mio codice. Sì, ma infatti non mettono DRM nel loro codice. In realtà lasciano fare il lavoro ad Adobe, che scrive un plugin apposito. Ah. E loro semplicemente, nel momento in cui una pagina richiede la visualizzazione di contenuti protetti, consiglieranno l'installazione del plugin di Adobe, come una volta si installava Flash con un click direttamente. Devo dire la verità, una situazione di questo tipo era già stata prevista da mia nonna, che un giorno, guardandomi, mi disse: figlia Antrocchia. Diciamo, più o meno. Tua nonna? Sì, la situazione comunque era simile. Sì. Ed era da parte di mio padre. Ah, ok. Okay. No, per dire. No, dico comunque, no. La situazione più o meno è simile. Noi non vorremmo essere cattivi, ma Firefox dovrebbe capire che la sua forza è l'open. Esatto. È la comunità. In realtà, esatto. In realtà, chi fa questo ragionamento, cioè chi pensa all'inserimento del DRM. Allora, la cosa è: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Sì. No. Zoppicare. Sì, no, zoppica. A DRM mare. No, loro dicono: però se noi non mettiamo il supporto, poi quei siti che non si vedono, la gente poi non usa più Firefox. Però, insomma, tra usare un browser aperto e non vedere il DRM e usare un browser chiuso, cioè, e vedere il DRM, cioè, comunque a questo punto ogni sito dovrebbe essere fatto in più versioni, a in modo da poter essere visto con uno o con l'altro browser, con uno o con l'altro gestore di DRM. Quindi ci sarà la versione per i browser standard, la versione per Internet Explorer, poi ci sarà l'hack per bypassare i bug di Chrome, perché sinceramente ce n'è. Poi ci sarà la versione codice di Firefox. Sì, beh, però diciamo che è quello che considero più standard. Ah. No, non è forse quello più standard, però è quello che mi dà meno bachi di solito, okay, quando fai qualche cosa di strano. E poi ci sarà il contenuto per Internet Explorer, il contenuto per un certo DRM, un contenuto per un altro DRM, un contenuto per un altro DRM. Poi ci sarà quello in MP4, quello in OGG, cioè comincia a diventare difficile. Sì. Io eviterei. Cioè, fondamentalmente non esiste più uno. Già questo problema si è venuto un po' a porre quando il V3C non ha definito il codec che doveva essere lo standard per il tag video, che non l'hanno fatto per far piacere a certe persone, esattamente. Ne imponevano uno e basta, non l'hanno fatto. E adesso questa storia del DRM andrà a finire anche quella. Purtroppo ci sono in giro un po' di soldi e questi progetti costano. Questa cosa è brutta da dirsi, ma è così. Quindi, se volete XXX term o sombrero, io vi invito ad andare a cercare su internet, sul sito del Defective by Design, è un sito della Free Software Foundation, che si pone contro qualsiasi DRM. E ha una campagna per metteremo il link sul sito. Esatto, metteremo il link sul sito, per cui iscrivetevi, che sensibilizzatevi. Esatto. E andate a dire ai vostri amici: no DRM. RM, no! No! DRM. RM. No, smettila! Non capisco. Picchiate il vostro prima amico. Prima mi dice di dire RM, poi mi dice di no, non capisco. Troverete altri amici. Picchiatelo. Chiudiamo con due rapide notizie di... Sono successe tante dall'ultima volta che ci siamo sentiti. In realtà, sono stati 8 mesi fa. Non possiamo fare una puntata di 8 mesi. Per cui vi diamo due notizie veloci di nuove uscite, di cose che potrebbero interessarvi. Una è che è stato rilasciato il Perl 5.20.0. Aspetta un attimo, Ma esattamente il Perl, nel senso, io, dove lo trovo? Per esempio, ti faccio due esempi veloci. Git usa molto Perl, almeno dipende dalla versione Perl. Poi c'è un bellissimo programmino che si chiama XML Grep. Oh, lo conosco, esatto. È il programma più utile del mondo dopo la pasta col pomodoro. Sì, è un programma, per esempio. Col pomodoro. Beh, io ho in programma di farmi la pasta col pomodoro. Ah, sì, esempio. È un programma. Esatto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma ce n'è di software ce n'è. Che usano Perl, è uscito. Ma perché i programmatori sono obsoleti? Ma allora, io non l'ho mai usato, sinceramente mi viene l'ansia a pensare. E vivo bene. Esatto. Invece, un'altra notizia che magari può fare più felici i debianisti che aspettavano novità. È stato annunciato un elenco di nuovi pacchetti che sono stati aggiunti alla versione Unstable di Debian. Tra questi ne citiamo tre che saltano all'occhio, ovvero sia 2048 QT, che mia nipote ci gioca a manetta sull'Android. Esatto, che è quel famoso puzzle tipo il gioco dei 15, solo esatto. Che invece che spostare basta i quadretti bisogna unirli per formare potenze di 2. È famosissimo sull'internet questo gioco. Hanno fatto le versioni più disparate. In Debian è entrata una versione scritta con in QT. Poi è arrivato Cube 2. Io conoscevo il film. No, quella è un'altra roba. Cube, Hypercube, no. Tripler quel Cube. Quel film osceno, sì, ho presente. Sì. No, si tratta di uno sparatutto 3D in prima persona. È interessante perché non è solo un gioco, ma è anche un motore grafico particolare. E il gioco comprende anche un editor di livelli all'interno del gioco stesso. Quindi ovvero, uno si può scrivere il livello. È possibile, sì, girando nella visuale, diciamo in prima persona, è possibile girare all'interno del livello. Io programmo. Selezionare prima persona. Sì. Selezionare delle aree del livello e modificarle, magari sollevare una colonna piuttosto che spostare, inclinare per creare nuove aree del livello. Insomma. È molto interessante, è particolare. Invece l'ultimo pacchetto di cui volevamo darvi notizia è l'inserimento in Unstable di Mate. Mate è il desktop di Mint. Sì, è il fork di GNOME 2 fondamentalmente. Sì, diciamo che è una versione utilizzabile di GNOME 2, carina, gommosa, quasi come se fosse GNOME 3, ma non è pesante tale quale. Fondamentalmente si tratta di GNOME 2 che sta praticamente lo stanno man mano aggiornando le GTK 3. Facciamo GNOME 2 e mezzo, per dire, sì. Quello che la gente si aspettava fosse GNOME 3, che in realtà non è. Ecco. Va bene. E con questo noi chiuderemo, a meno che non vuoi dire qualcos'altro. Ma voglio solo dire Mr. Beam. Giusto, chiudiamo col progetto. È una cosa che ultimamente ci piace fare, per cui io utilizzerei una... Ce l'abbiamo? Sì, facciamo una cosa così. Non è proprio quella giusta per questo... Vabbè. Però fa niente. È l'ora del progetto. È un progetto che abbiamo cercato su internet noi per voi, per farvi sapere che cosa è possibile trovare su internet, perché sono andato lungo, scusate. Finita la musica. Vabbè, allora, perché di solito dura 20, 40, 50 secondi questa tua presentazione. Allora, Mr. Beam è Portable Laser Cutter and Engraver Kit. Caspita. Allora, Non ho capito cosa hai detto. Allora, è un tagliatore laser e incisore. Sì. È una cosa stile fresetta, no? Che quindi si muove da sola col suo programmino tutto open source, anche tutto il progetto è open source, e c'è questo aggeggio sopra che invece di essere, per esempio, nelle stampanti 3D c'è un estrusore che ti lascia lì la plastica, nelle fresette c'è la fresa. La fresa. In questo caso c'è un piccolo laser. Questo laser ha una potenza, mi pare, di... svariati. Spara 1.5 ampere, quindi nel senso non metteteci sotto la faccia. Eh no, anche perché se fa l'incisore, esatto. Non è bello, insomma. A meno che non vuoi farti dei tatuaggi. Per esatto, dire. Perché poi in base al materiale che mettete sotto riesce a tagliarlo o solo a inciderlo. Hanno fatto delle cose carine. Loro non chiedono tantissimi soldi. Questo progetto... Prima cosa, è un progetto che noi abbiamo trovato per voi su kickstarter.com e loro non chiedono tanto, chiedevano $45,000, ne hanno già tirati su quasi $140,000. Interessante. Okay? Quali sono i livelli di acquisto, partecipazione? Allora, si parte da $1, $10, $20. Diciamo che con $259 riuscite a portare a casa un Mr. Beam completo. Interessante, interessante. Diciamo che a livello strutturale sono 4 pezzi di legno, 2 motori passo passo e il laser. Quindi, essendo open source, uno se lo può anche costruire a casa. Sì, sì, sì. Sai allora, cosa, la cosa che costruire... costa di più è il laser. Esatto, per costruire. Però io conosco gente che potrebbe procurarci, ecco, per esempio. E comunque i prodotti che riesci a tagliare sono carta, pellicole, compensato, che già non è male, foglie di gomma, legno, cioccolato. Questa cosa mi piace. Pelle, carne. Sì, se vuoi farti, non so, delle bistecche con una certa forma. E acrilico. Ok. Potrebbe essere interessante per il tuo progetto, che ne parleremo magari in una puntata. Ah, prima o poi lo troverete su Kickstarter. Sai che non è una cattiva idea. Cacchio. Va bene, abbiamo raggiunto il minutaggio previsto per le puntate di Open Cast Alpha. Vediamo di non sforare più del dovuto. 7, per esempio, no? Sì, quasi. Noi vi lasciamo con un sacco di saluti e soprattutto con l'ultima canzone. Era tuo quel sacco. Sì, però di saluti. Vi lasciamo con l'ultima canzone. Loro sono The Fresh Body Shop. Non so se è chiaro. The Fresh Body Shop. Cioè il negozio di corpi freschi. E questo, no, volevo capire dove volevi arrivare. Comunque, perché il titolo è evocativo perché si intitola Make This Hand. Allora, faccio un brano che non mi ricordo un accordo di questa canzone. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.